con l'attrice Viola Graziosi per parlare dello spettacolo The Handmaid's Tale, racconto dell'ancella, tratto dal romanzo di Margaret Atwood, che sarà in scena al Napoli Teatro Festival, Galleria Toledo, sabato 6 luglio 2019. Viola, ben trovata. Ciao, bentrovati voi, bentrovati a te. Ci racconti? Certo che vi racconto. Questo spettacolo nasce da una radio, pensa, un anno e mezzo fa, Radio 3, Laura Palmieri mi ha chiesto per l'8 marzo di preparare una lettura in diretta da Via Asiago e in diretta radio del racconto dell'Ancella, che si avvaleva in quel caso di un bellissimo adattamento fatto da Loredana Perini. Così ho scoperto il romanzo, la serie TV e mi sono assolutamente innamorata di questo testo. Poi innamorata in realtà è una parola grossa, in questo caso appassionata da una questione così delicata, complessa, allarmante e sempre più purtroppo comunque ancora attuale, ancora più bruciante forse oggi che nell'85 quando l'ha scritto questo romanzo. Se vogliamo ricordare brevemente, è un romanzo distopico dove l'Atwood immagina una società in cui le donne vengono prelevate, suddivise per categorie distinguibili dal colore del loro vestito: rosse le ancelle, blu le mogli dei comandanti che al 90, insomma, che non possono avere figli quasi sempre, verde per le marte che sono come un po' le zie, le istitutrici che spiegano e insegnano alle giovani ancelle come funziona questa sorta di modello di nuova società ideale, con tante virgolette, e le altre, diciamo, che sono le non donne che vanno nelle colonie, spariscono e non si sa più nulla di loro. Quindi una società dove che sembra disporsi perché la donna possa al meglio adempiere a quello che sono quello che è il suo destino biologico, ovvero quello di generare figli. Ecco. Allora, Penso che se tante parole già risuonino in noi e in quello che si vive o si sente in questo periodo per capirne appunto la portata e l'importanza. volevo chiederti tutta la serie dei passaggi. Secondo Ah, te, va com'è bene. stato il passaggio alla serie TV e poi voi invece come siete entrati in rapporto alla pagina scritta? Dal romanzo alla serie TV è stato interessantissimo perché ha creato questo mondo, lo ha veramente inventato in modo meraviglioso, per cui è un lavoro splendido. Io l'ho seguita quasi tutta la serie. Devo dire che a un certo punto abbiamo smesso anche con Graziano Piazza, il regista, proprio perché non volevamo essere influenzati da qualcosa che poi chiaramente in una serialità rientra nel come andrà a finire. Mentre in quello che portiamo noi mettiamo più in risalto il monito, che è questa storia, che è comunque una storia di finzione, ma è una storia per parlare di qualcos'altro, per cui il come andrà a finire ci interessa in questo caso relativamente. Il teatro è palesemente, diciamo, finzione in sé, anche solo perché è teatro, per cui ci permette di giocare con la materia in questo modo. Il romanzo è chiaramente densissimo, ha delle cose interessantissime che poi sono state sviluppate nei vari episodi della serie. Appunto, la versione teatrale che ne ha fatto la Lipperini rimane tratta dal romanzo, per cui non c'è stata una riscrittura, c'è stata una riduzione, una rielaborazione per creare una drammaturgia che avesse un filo, diciamo, logico. In qualche modo, lei fa come un percorso a ritroso, cioè partiamo dall'ancella che ci racconta e coinvolge il pubblico che potrebbe essere a volte nuove giovani ancelle messe lì ad ascoltare o altre volte spettatori piuttosto, quindi sguardo di noi oggi su quello che è la società di cui ci racconta questa ancella, fino a tornare ad avere dei ricordi o comunque manifestare dei ricordi della vita di prima, per cui arrivare a porsi delle domande che sono cruciali e centrali: com'è possibile che ciò accada? È giusto? E che cosa di noi si manifesta? In che modo siamo responsabili? Ciascuno di noi ha la propria parte di responsabilità. Questo è quello che proprio appunto, in questo senso l'esperienza teatrale diventa un momento qui ed ora che ha meno protezione da un punto di vista e di più dall'altro, perché siamo in teatro e stiamo giocando da un lato, per cui sappiamo che è tutto finto. Dall'altra parte però l'esperienza che viviamo è reale di quel momento, perché poi il lavoro che stiamo facendo con Graziano Piazza è quello di uscire dalla narrazione, benché si tratti di un racconto, ed entrare nell'azione teatrale, ovvero nell'esperienza l'esperienza di quel momento, quell'esperienza condivisa con il pubblico in un rapporto molto diretto, perché in scena non c'è niente se non l'ancella, in quanto appunto non abbiamo nemmeno provato a ricostruire un luogo simile al reale. Per questo le immagini le abbiamo già, grazie alla serie TV, per cui basta andare su Google e arrivano le immagini. È chiaro che io ho il costume, il vestito, che poi è un costume, anche per come viene chiamato dalle ancelle stesse, anzi c'è proprio una vestizione di questo abito, diciamo, dell'ancella, però è un'esperienza condivisa, diretta con lo spettatore, quindi diventa un'esperienza comune, e mi auguro che possa in questo senso essere un seme che rimanga come una sveglia, come un'attenzione maggiore dentro ciascuno di noi. Oh, mi sembra che... di cui faccio parte. Mi sembra che il romanzo tocchi tre tematiche centrali nel modo in cui il patriarcato tratta la donna, ossia il potere, il sesso e la procreazione. Sì, assolutamente sì. Quello che anche viene fuori poi è che è una società che ha questi uomini che non si vedono, ma comunque l'azione manuale, insomma, e le cose sono anche gestite dalle donne, per cui c'è sempre questa parte di come ritroviamo spesso, di sì, società patriarcale, ma anche poi donne che mettono in atto con le donne, che comunque coloro che insegnano questo nuovo comportamento e convincono o comunque istigano le giovani ancelle o insinuano in loro il fatto che sia molto meglio così, sono le donne stesse. Mm-hmm. E allora anche questo ci fa porre delle domande importanti. Sì. E arriviamo al punto in cui l'ancella, quello che cerchiamo di fare in teatro è di tirare le fila senza giudicare, cioè senza entrare senza porla soltanto come vittima, perché è troppo facile. Se continuiamo a dire che l'uomo è cattivo e che la donna è vittima, non usciamo da quello che sembra sempre riprodursi, ma tra vittima e carnefice sappiamo oggi che le responsabilità sono di ciascuno, anche se poi la questione della donna è veramente importante e gravissimo, che ancora oggi la violenza sessuale, la questione della bellezza, del corpo della donna che pone problema, è veramente delicata e è da interrogare. Noi non abbiamo risposte, quello che cerchiamo di fare è di porci insieme delle domande. Viola, che percorso sta facendo lo spettacolo? Sta diventando sempre più presenza e azione del momento. Mi viene una grandissima disperazione che poi invece va contenuta nello spettacolo, perché dico: ma come fa un essere umano in questa circostanza a sopravvivere, ad andare avanti? A che cosa si attacca per trovare ancora qualcosa di umano? Fin dove arriva la disumanizzazione e perché la vita continua anche se l'umano si perde, e dov'è il limite? In questo senso, per esempio, proprio l'adattamento di Loredana Lipperini fa sì che la memoria, il ricordo riporti all'umanizzazione. Se perdiamo il ricordo del passato, il ricordo di un'altra situazione migliore, non abbiamo più modo di renderci conto di quello che viviamo. Infatti a un certo punto zia Lidia, che è la grande istitutrice delle ancelle, diciamo, dice alle ancelle: sappiamo che per voi è difficile perché siete una generazione di transizione, per quelle che verranno dopo sarà più facile, perché non vorranno cose che non possono avere, perché accetteranno il loro dovere con cuore volenteroso. E l'ancella commenta: non diceva perché non avranno ricordi. Allora, se noi perdiamo i ricordi di quello che è la figura della donna, quello che è stata nei secoli, e come le battaglie, le conquiste che riguardano proprio i diritti dell'uomo, cioè dell'essere umano, non in quanto donna o uomo, ma dell'essere umano, dove siamo arrivati? Se perdiamo la cultura, e se perdiamo i libri, e se perdiamo la possibilità che il passato ci insegni e per un presente, per un futuro migliore, allora torniamo all'estato bravo, allora torniamo veramente a quello che è qualcosa di assolutamente primitivo. In questo senso portare l'ancella è delicato e urgente, ma è qualcosa che è anche un grande motore, una grande necessità per me come donna, con però Graziano Piazza, un uomo, non solo un uomo, ma mio marito in questo caso, a curare la regia, proprio perché nel nostro intento c'è quello di cioè voler mostrare che uomo e donna insieme possono comunque essere un valore. Non avrei voluto farlo uno spettacolo di donna che parla delle donne, fatto dalle donne, con regista donna, attrice donna e tutto donna, perché sennò siamo ancora nella divisione. Invece mi piace pensare che insieme, in questo forse gli uomini possono aiutare le donne a trovare una loro posizione che sia giusta e che le comprenda in tutta la loro meravigliosa complessità, in questo che gli uomini possano essere un po' femministi anche loro e che le donne possano mantenere anche alta la fiducia, in questo la fiducia nell'altro e pensare che insieme ci sia modo di sviluppare, di aiutarci e di essere, insomma, di migliorare qualcosa di sé, perché poi quello che riguarda le contraddizioni della donna o dell'uomo, ovvero dell'essere umano, penso riguardino veramente tutti, si va di là del genere, no? Mm-hmm. Dopo Napoli proseguirà il suo viaggio? Allora, proseguirà sicuramente, perché me lo stanno chiedendo tanto, proprio perché appunto le questioni anche da un punto di vista politico e artistico sono molto, molto importanti oggi e c'è un richiamo molto forte. Però ecco, aspettiamo a definire le prossime tappe, che ci sia questo primo debutto a Napoli, insomma debutto nazionale dello spettacolo. È veramente una novità assoluta questa ancella in prima persona, perché sono stati fatti anche tanti, sono state fatte delle versioni teatrali all'estero, non in Italia, ma versioni musical, insomma un po' diverse. Questa è proprio una confessione o comunque sì, una lente di ingrandimento su un'ancella, per capire cosa ci può essere di questa ancella in ciascuno di noi, cercando anche di poter dire dei no, nel senso che siamo chiamati davvero a una grande responsabilità personale, ancora più oggi dove abbiamo in bocca delle parole che vengono da delle conquiste che sono state fatte, come libertà, come parità, come uguaglianza, ma non sempre queste parole però hanno una radice reale, o meglio, le usiamo più facilmente, ma ci dimentichiamo da dove vengono e magari noi stessi, lasciando andare delle piccole cose, piccoli dettagli, alimentiamo poi la vacuità di queste parole se non sono profondamente piene del significato che portano, no? E allora, oggi diciamo tutti sì, ma tanto c'è la parità, l'uguaglianza, come donna, non è vero. Non è vero, in piccole grandi cose non è vero. Allora iniziamo a dire che non è vero. Ricordiamo l'appuntamento con lo spettacolo The Handmaid's Tale, il racconto dell'ancella, al Napoli Teatro Festival, alla Galleria Toledo, sabato 6 luglio 2019. Un saluto e un ringraziamento all'attrice Viola Graziosi. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie tantissime, viva il lupo. A presto.